Friuli nel mondo, 59esima trasmissione dedicata agli emigrati. Un mattino di settembre. Ce ne andavamo, una di queste prime mattine di settembre, lungo una stradetta di montagna del Friuli. E ci seguiva l'acqua chiacchierina d'uno di quei torrentelli di cui invano si cercherebbe il nome sulla carta. Non sapevamo se fosse l'acqua a misurarsi sul nostro passo, o se fossimo noi a cadenzare la nostra marcia sul respiro arguto della corrente. Sopra di noi un'aria celeste, e a un tratto il bosco. Il bosco con tante ombre e sussurri e fruscii e profumi da indurci a penetrare in esso, nel suo cuore segreto. E all'improvviso, melodiosissimo, il canto degli uccelli. Ascoltavamo estasiati. Ci pareva d'essere in un mondo di fiaba, d'essere noi stessi trasformati in due creature silvane, se a dirci che no, non era vero, eravamo due esseri della terra, non fosse stato il pensiero che tornava a quella stupenda pagina di Leopardi scritta appunto in elogio degli uccelli. Sono gli uccelli, naturalmente, le più liete creature del mondo. E a quei versi d'un nostro poeta scomparso, Giovanni Lorenzoni, agli uccelli anch'essi dedicati. Di donge di lontan, squinduz en fri ramaz, fasin un gran bacan. Come tan frutaciaz, sai sinta svoletà, sai sinta matea. O ce notis che van vie palaier seren, o iucei sì, che san gioldi, e gioldi le aplen la vite, e no puorez, vivindi fufignez. Ma risommergerci nel dubbio se quanto vedevamo e ascoltavamo fosse realtà o sogno, ecco che scorgemmo nel bosco un uomo. Ci guardò, ci sorrise, e infine ci parlò per dirci che non aveva saputo resistere al richiamo del bosco dopo tanto tempo che mancava da quassù, dalla sua terra. Era emigrato da molti anni, ci disse, e ora a starsene lì, a colloquio diretto con la natura, gli pareva di comprendere meglio il suo Friuli, di cui non aveva dimenticato nulla, neppure i canti. Quando ci accorgemmo che aveva in mano una chitarra, aveva già cominciato a suonare. C'era dubbio, ricordava benissimo i motivi più cari del nostro popolo, i più vicini al suo cuore. Quando riprese a parlare ci disse che ogni sera, laggiù dove lavorava, il pensiero gli correva a casa sua e che non riusciva a dissociare l'immagine del suo paese dal canto delle villotte che i giovani intonavano nelle strade. Ora, ci disse, s'approssima l'autunno. E a lui, se fosse stato laggiù, sarebbero tornate in mente le parole di De Peris e la musica di Kubik della villotta dedicata all'autunno. E lo straordinario era che mentre lui parlava ci sembrava di udire quelle parole, di ascoltare quella musica. Sur la terre, sur l'espace, sur la terre, sur la terre, sur la terre. Parlava, l'emigrato tornato a rivedere il Friuli. Ed ora ci diceva che per lui l'autunno era la stagione della vendemmia e del vino, e che nulla gli era tanto caro come le villotte ispirate all'allegria che il vino trasmette nel bevitore. Ed ecco rinnovarsi in noi il prodigio, riudire dalle sue parole i canti che gli piacevano. Ormai il nostro uomo era in vena di confidenze e a noi era caro ascoltarlo. Avvertivamo di trovarci di fronte ad un'anima semplice e buona, dinanzi ad una creatura innamorata non meno di noi del Friuli. E non ci meravigliammo più quando, parlandoci egli della sua predilezione per la fisarmonica, udimmo la fisarmonica suonare.